America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Ramones, I Wanna Be Sedated, musica punk newyorkese, il simbolo di una New York ribelle, di una New York che ha fatto storia, il simbolo di un personaggio, un Clayton Patterson, 65 anni, un fotografo conosciutissimo negli ambienti underground, barba lunga da motociclista, grande pancione, può sembrare un Babbo Natale se non avesse dei provocatori denti d'oro. Ebbene, questo Clayton Patterson è stato il simbolo per molti decenni di una certa New York underground, di una New York che continuava ad essere alternativa a tutti i costi, ed era il simbolo, se vogliamo, di questa New York che ha molti estremi e trova la sua creatività proprio in personaggi come lui, la sua creatività, la sua energia. Allora, che succede? Succede che nelle notizie qui in America abbiamo appreso che il signor Patterson ha deciso di lasciare la sua casa a Essex Street, che è nel Lower East Side. Il Lower East Side è la parte bassa di Manhattan, c'è tutto un quartiere che è sempre stato un po' ribelle, un po' underground, si chiama Alphabet City, ci sono state delle manifestazioni di piazza, ci sono state delle battaglie fra polizia e drogati, insomma. Lui lascia questa sua casa nel Lower East Side per andarsene a Bad Ischl in Austria. Ecco, abbiamo sentito i Ramones e abbiamo sentito i gorgoglii tirolesi. Io credo che non ci sarebbero dubbi. Se uno potesse scegliere, forse sceglierebbe il simbolo di New York e magari cercherebbe di star qui a vivere. Poi, per carità, le montagne austriache sono meravigliose, Bad Ischl è bellissima, lo stesso Patterson ha trovato lì un gruppo di seguaci che lo adorano, gli hanno creato un ambiente che lo vogliono accogliere. Però questa storia resta una storia simbolo su cui si dibatte molto in America, soprattutto a New York, soprattutto in questa città. E cioè, ma questa New York, che cos'è davvero? È una metropoli per ricchi venezuelani, russi, brasiliani che vengono qui e comprano appartamenti da 100 milioni di dollari? O resta quella città mitica della nuova frontiera, della creatività artistica, dove poeti, scrittori, musicisti hanno trovato, artisti naturalmente, hanno trovato ispirazione che poi da lì si è diramata nel mondo? Ecco, questo è un dibattito molto molto attuale. Perché? Perché qualcuno dice che in realtà l'arte a New York non esiste più. Chi? Ma per esempio Sari Botton, che è una scrittrice, ha fatto un libro, Writers on Loving and Living New York. Quindi ha scritto questo libro sul fatto che gli scrittori, certo, amano New York, però la devono lasciare perché ormai non ci si ritrovano più, non fa più parte del loro DNA. Dove vanno? Vanno in campagna, vanno in paesini lungo il fiume Hudson, a nord di New York. Perché? Perché gli appartamenti sono sempre più costosi, ci sono catene di negozi che hanno sostituito i vecchi bar romani, romantici, persino i parchimetri sono costosissimi, ci sono ristoranti pretenziosi al posto dei coffee shop, locali storici come CBGB o la Knitting Factory hanno chiuso tutti uno dopo l'altro. C'è dunque quel fenomeno che si chiama gentrification. Rolling Stones, Painted Black, il quadro nero, dunque questo quadro nero per artisti come Patterson. Qual è la sua storia? Intanto lui arriva da Calgary, Alberta, nel 79, si sistema nel Lower East Side, ha vissuto fra gli squatter, gli anarchici, graffitari, tatuatori, poeti, junkie, punk rockers, sacerdoti della santeria. Con la sua compagna, anche lei un'artista, Elsa Rensa, ha preso un appartamento su Bowery per $450 in affitto. Uno dei loro vicini era, pensate, il pittore, l'artista, che allora non era ancora famoso, era nessuno, Kit Haring. Quindi devo dire, c'è in questa storia di Patterson, che è nato nell'underground ma è rimasto nell'underground, c'è un aspetto simbolico molto interessante di questa New York fertile per gli artisti. Ma qual è la differenza? Kit Haring è diventato un grande artista famoso in tutto il mondo, e invece Patterson è rimasto conosciuto soltanto, diciamo, fra gli addetti ai lavori, nel suo ambiente. Dunque, quando piano piano vede che i suoi amici spariscono, vede che le memorie del 6 agosto dell'88, quando ci fu la grande rivolta di Thompson Square nell'East Village, con questo scontro di centinaia di persone, di ribelli, di giovani contro la polizia, perché la polizia dice non si può più stare a dormire nel parco, dunque ci fu la rivoluzione. Ecco, questa New York di protesta per lui non c'è più. Quando il Mars Bar, che è un dive bar sulla prima e la seconda Avenue, chiude per diventare una filiale della TD Bank, anche per lui è una coltellata al cuore. Pochi mesi dopo il Life Café, dove Jonathan Larson ha scritto una parte del musical Rent, che è questa storia di AIDS, un musical che ha avuto grande successo a Broadway, è stato improvvisamente chiuso, e così via, potrei continuare all'infinito. Però che succede? Che proprio il signor Patterson, depresso per questo cambiamento che deve avanzare attorno a lui, una sera va a un opening e vede una bellissima ragazza, affascinante, non necessariamente bellissima, molto elegante, creativa, alla moda, moderna, innovativa. Insomma, ha la sua macchina fotografica di sempre, perché lui fa il fotografo, disegna dei logo, disegna dei cappelli, insomma è diventato un artista e conosciuto in certi ambienti anche della moda, e chiede a questa ragazza di poterle fare una foto. E la ragazza accetta, parlano, chiacchierano, scopre che la fidanzata di un cantante, Gary Angulo, della band Dammit, conosce Angulo, conosce gli altri membri della band, vanno insieme nel loro studio e scopre che questi ragazzi lo adorano, perché lo conoscevano, perché lo avevano studiato sui libri della protesta e hanno creato la loro musica anche ispirandosi a questo suo senso di ribellione, e dunque gli chiedono di fare il logo per le loro giacche di pelle. Lui sta nello studio mentre registrano e scopre che forse è lui che è invecchiato e che la città sta cambiando, scopre che la creatività c'è davvero. Dunque, quando io sento di storie che New York è finita, che New York è soltanto una città materiale, non credeteci. New York resta una meta d'attrazione per qualunque artista del mondo. Qua chiunque può fare qualunque cosa. Molti si sono trasferiti magari a Brooklyn, a Williamsburg, ma è sempre New York. New York è viva e vegeta, e lo stesso Patterson alla fine ammette: per me è stato come un sogno aver trovato questi ragazzi proprio mentre me ne stavo andando, perché continua nei suoi programmi, andrà in Austria. Mi accorgo, dice, che la vecchia New York per me è stata tutta la mia vita, non c'è più, ma ecco che per questi ragazzi c'è la nuova New York. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!